9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon lunedì, buon inizio di settimana, buon lunedì 14 dicembre. Chi ha sentito il lancio della trasmissione sa che avevamo ordinariamente deciso di parlare d'altro, abbiamo deciso di parlare delle vostre tasche, delle vostre spese avvicinandosi sotto Natale, delle previsioni della tredicesima da impiegare, come impiegarla e soprattutto della necessità di liberalizzare anche questo settore, ma obbligatoriamente. Il nostro compito di giornalisti radiofonici è quello di seguire l'evoluzione di notizie quando notizie così gravi, così impreviste cambiano obiettivamente, interrompono con forza, con violenza, il caso vuol dire, a cambiare l'agenda del paese. E quindi anche noi con questa ora di trasmissione, aprendo i nostri microfoni alle vostre interventi, quindi chiamate all'800 24 00 24 per i messaggi SMS, lo sapete ma lo ricordo per i nuovi ascoltatori, il numero è 349 238 6666. Insieme ai ospiti, insieme alle vostre voci, tenteremo di approfondire le conseguenze, le implicazioni, il significato dell'atto di violenza di cui è stato fatto oggetto ieri sera il Presidente del Consiglio al termine del suo intervento in Piazza Duomo a Milano, intervento nel quale era stato concesso a lui stesso la tessera numero uno del Popolo della Libertà e il Presidente del Consiglio l'aveva provveduto poi a consegnarla al sindaco di Milano Moratti, che aveva sciolto la formazione politica autonoma, la propria lista con la quale aveva corso e aveva vinto per la sua prima candidatura a sindaco di Milano. Il sindaco di Milano Moratti aveva annunciato dal palco di accettare la sfida di questa nuova formazione politica al PDL, entrando dunque e con la tessera offerta di Berlusconi. Berlusconi aveva svolto il suo intervento politico non molto lungo, a dire la verità, e di fronte a un pubblico di qualche migliaio di sostenitori, ma non foltissimo, e dovendo fronteggiare alcuni contestatori dell'opposizione determinati, di fronte ai quali all'inizio prima si è interrotto, poi ha detto vergogna, vergogna, vergogna, ha chiamato l'applauso per rinfrancare i suoi che all'inizio, non essendo altrettanto professionisti nel sostenerlo, venivano, almeno nell'audio che si sentiva nella diretta del video, venivano un pochino sopravanzati dai contestatori. Ma il Presidente del Consiglio, con una certa qual capacità che ha sempre dimostrato di interpretare con discorsi improvvisati la platea e la temperatura del pubblico dal vivo, era riuscito assolutamente ad aver ragione, per così dire, dei contestatori, scaldando la piazza e dando più voce al Silvio che proveniva dai suoi sostenitori. Nell'intervento non c'era stato, a dire la verità, una risposta molto approfondita sui temi politici di queste settimane, non c'erano stati nuovi sviluppi, c'era stato un riferimento non troppo polemico nei confronti dell'UDC come un partito amico che sta un po' di qua un po' di là, e aveva detto il Presidente del Consiglio: se poi deciderà di stare di là, benissimo, comunque noi vinceremo. C'era stato questo sì da parte del Presidente del Consiglio più volte, sistematicamente, soprattutto nella parte relativa alla enunciazione dei lunghi liste di successi nei confronti dell'antimafia, c'era stata una risposta molto determinata al troppo odio di cui, a detta del Premier, egli stesso è fatto vittima da parte dell'opposizione. E al termine di tutto questo, questo troppo odio si è manifestato con un gesto di violenza personale. Sapete le cronache, sapete del Tartaglia, della persona che ne è stato responsabile, uno psicolabile, ha agito non in collegamento con altri, pur tuttavia il gesto è avvenuto. Sapete di Pietro, abbiamo sentito da Alessandro Milan, tentiamo con alcuni colleghi adesso di capire se questo segno politico cambia ulteriormente l'atmosfera del confronto, la limita. Mi fa quasi un po' sensazione dirlo, ma la domanda che molti colleghi si facevano tra ieri sera, stanotte, sul web, nei colloqui riservati, non in quelli che su Facebook leggono tutti, era: ma è qualcosa di paragonabile, aprite le orecchie, via, questo è il paragone storico, all'attentato di cui fu vittima Togliatti nel 1948. Nessun paragone, certo, Togliatti era capo dell'opposizione, era stato estromesso dal governo, però ecco, quell'attentato cambiò il segno politico della vita italiana, nel senso che si scoprì con tirando il fiato per qualche giorno e qualche vittima per le strade, si visse nel terrore che la cosa potesse degenerare, dopodiché la responsabilità politica assoluta, in quel caso, di un grande partito nazionale, di opposizione, appena estromesso al governo, interruppe ogni spirale. Però contemporaneamente il segno di uno scontro politico fino alle estreme conseguenze, rimase ad aleggiare nella politica italiana per molti decenni dopo l'attentato di Pallante e Togliatti. Siamo in presenza di qualche cosa di simile. Allora, inizio a presentare gli ospiti per questa prima parte. Abbiamo con noi Pierluigi Battista del Corriere della Sera. Buongiorno Battista. Buongiorno. Abbiamo Rinaldo Gianola, che è il vice direttore dell'Unità. Buongiorno Gianola. Gianola, mi rendo conto, la mia domanda è una domanda un po', se mi ha sentito, questo il riferimento all'attentato a Togliatti, tutto diverso, questo è un premier, quello dell'opposizione, però insomma quello che cambia è il mutamento dell'atmosfera politica. È un mutamento secondo te così radicale, oppure siamo nel campo di un atto così un po' di un matto fuori da ogni controllo e che non aggiunge uno sposta nulla, tranne l'emotività di qualche ora? Tu che dici? Insomma, io no, forse il paragone con Togliatti non mi sento di farlo. Insomma, l'attentato a Togliatti avvenne in un contesto storico, politico, comunque lontano e molto differente da quello attuale. E lì, tra l'altro, ci fu una reazione popolare, politica, molto forte, addirittura qualcuno prese le armi sul Monte Amiata. Insomma, siamo veramente in una situazione diversa. No, invece quello che mi sento di dire è che comunque questa aggressione al presidente Berlusconi, anche se probabilmente è stata realizzata da una persona squilibrata e quindi insomma da prendere sempre tra virgolette, cambia lo scenario politico, è qualcosa che cambia la discussione, il confronto, la lotta e direi anche la violenta polemica politica. Cioè da oggi in avanti secondo me c'è qualcosa di diverso nello scenario politico italiano, cioè l'aggressione a Berlusconi cambia, il sangue che scorre dalla sua faccia, le immagini televisive, le fotografie questa mattina sparate da tutti i siti internet del mondo, dalle televisioni, dai giornali italiani, cambia lo scenario politico. Probabilmente alimenterà per qualche giorno un senso di prostrazione anche politica, no? Perché quando ci sono questi tipi di aggressioni, quando ci sono degli attentati, quando qualcuno è vittima dell'aggressione di un altro, c'è un clima generalmente di larghissima preoccupazione, di condivisione di una situazione che rischia di precipitare. E poi però bisogna chiedersi dove si va, no? Allora la situazione è che noi oggi, ancora oggi, lo dico purtroppo, siamo qui costretti ancora a parlare solo ed esclusivamente di Berlusconi. Ce lo impone la cronaca, ce lo impone un fatto gravissimo e continuiamo ad essere concentrati, alimentati nel nostro dibattito politico, nel nostro lavoro giornalistico, nel nostro confronto quotidiano, nel nostro litigio quotidiano, solo ed esclusivamente su Berlusconi. Penso che essendo Berlusconi, la presidenza del Consiglio di Berlusconi, la politica di Berlusconi, un effetto sostanzialmente politico-mediatico di larghissimo impatto, questo continuerà. Non so se da domani noi continueremo a fare, non so, il nostro lavoro allo stesso modo, ecco, questo mi sento di dire. Ma c'è una cifra di Rinaldo, posso interromperti, sì, perché hai detto una cosa esplicitamente, ma c'è una cifra di troppo odio personale su Berlusconi secondo te? E in questo caso dico anche da una bella parte di informazione, tutta quella, insomma, c'è troppo odio o no secondo te? Guarda, io ti posso dire che l'informazione di opposizione, di centrosinistra, insomma, chiamiamola come vogliamo, l'opposizione critica verso Berlusconi esiste, è sempre esistita, resterà. Io penso anche, e io spero anche che in questo momento, nonostante tutto, non perda la sua radicalità di critica, perché altrimenti, sai, no, andiamo tutti a casa, insomma, non ha senso. Certamente c'è un clima nel paese che da qualche settimana, noi abbiamo anche scritto sul nostro giornale, che non riguardava solo Berlusconi, che non mi piace. Cioè c'è un clima di grande esasperazione e di violenza, direi, che sta ritornando nelle piazze italiane. Noi in questi ultimi giorni a Milano, ma anche in giro per il paese, abbiamo assistito a episodi, se vuoi, apparentemente marginali nell'ambito della grossa cronaca politica, ma importanti. Gli scontri, ad esempio, di sabato scorso in Piazza Fontana, due giorni prima c'erano stati degli altri incidenti in un centro sociale, ci sono state alcune violenze forti, esasperate dal confronto sociale, dallo scontro, dalla tensione di queste settimane, di questi mesi di crisi, in alcune fabbriche, davanti a alcune fabbriche nel Bresciano, c'è stato il caso delle Otelli a Roma, cioè ci sono dei casi, ci sono stati gli scontri l'altro giorno a Roma, alla margine della manifestazione della CGIL. Ci sono dei segnali, secondo me, gravi di tensione che si stanno esasperando, che stanno esplodendo e soprattutto direi che, come dire, non sono governati, non sono affrontati. A questo aggiungiamoci anche il fatto che, ad esempio, si sono rifatti vivi dei gruppi eversivi, non so di che spessore, quale valore possano avere, ma secondo il ministro degli interni Rognoni ha detto che ci sono... questi non sono dei matti, sono delle persone che la sanno lunga. Esatto. Allora, in tutto questo, insomma, io mi sento di essere molto preoccupato e temo, purtroppo, lo dico sinceramente, che l'aggressione di ieri sera cambia. Ecco, non so anche in quale direzione andiamo, devo dirti la verità. Io sono molto d'accordo con te che la cambi. Penso anche che la debba un po' cambiare, a dire la verità, perché io esplicitamente pongo la questione: se non fosse stato Berlusconi, se non ci fosse questo carico su Berlusconi, e questo carico spiegato da tante cose, la sua anomalia, la sua storia politica, però intendiamoci, quello che è andato in onda sugli schermi di tutto il mondo per la scorsa settimana, per il caso Spatuzza, è una cosa che avviene proprio perché c'è Berlusconi dall'altra parte. Perché altrimenti un pentito senza riscontri che viene mandato in mondovisione in un processo di cui viene chiamato a parlare di cose che non c'entrano niente con quel processo lì, c'è cioè quello dell'Utri, e poi scopriamo strada facendo, dopo averlo mandato in mondovisione, dopo che chiamiamo il Graviano, che insomma certo i riscontri non ci sono e intanto però è successo quello che è successo, tutto questo si spiega perché è contro Berlusconi, altrimenti fosse un qualunque altro imputato non ci sarebbe un ambaradan di questo tipo, e lo dico nella piena consapevolezza che bisogna rispettare le regole dell'ordinamento, ma mi sembra che in quel caso non si rispettino le regole dell'ordinamento, cioè c'è una torsione istituzionale oltre che mediatica, politica eccetera, che è tutta incentrata sul alziamo l'asticella perché altrimenti non riusciamo a liberarcene di questo Berlusconi. Pierluigi Battista, cambia l'atmosfera politica ma cambia anche questo sistema, o inevitabilmente oramai è così inerziale l'alzata dell'asticella per giustificare, giustificata dal fatto di mandare via Berlusconi, che si smorzerà per un giorno ma poi ricomincia perché è una slavina che non si può più fermare, secondo te? Guarda, io penso questo, ridurre l'episodio di ieri a un fatto di patologia, di uno squilibrato, è molto rassicurante, nel senso che poi capisce lo squilibrio psichico c'è sempre in qualunque clima politico, quindi il matto lo si può incontrare sempre e non dipende da noi. Se questo fosse, diciamo, in qualche modo il criterio di spiegazione, sarebbe un criterio di spiegazione che niente, un poveretto che si trova in queste circostanze, noi non possiamo farci niente. Invece credo, io ieri ho assistito al comizio, alla scena, alle contestazioni, alla scena finale, stavo lì e quindi ho avuto palpabile la sensazione. Quello che è avvenuto ieri sera a Milano in qualche modo è la metafora di quello che sta succedendo in Italia da almeno 15 anni, anzi da 15 anni, diciamo dal 1994, e cioè la figura di Berlusconi ha totalmente monopolizzato l'immaginazione pubblica. La politica si è costruita attorno a Berlusconi, sia sul piano, diciamo, di chi lo sostiene, sia di chi lo avversa. Gli schieramenti politici si formano in funzione di essere pro o contro Berlusconi. Questa è una malattia, questa è la patologia, questa è l'ossessione. Nel senso, e ieri sera c'era plasticamente l'idea di un popolo che si medesimava totalmente con la figura di Silvio Berlusconi, bypassando completamente l'apparato, diciamo così, del PDL, i vari dirigenti, e l'attesa era esclusivamente per lui, così come era esclusivamente per lui una contestazione fortissima, veemente, fuori la mafia dallo Stato, buffone, vergogna, mafioso, era, diciamo così, è questa la lotta politica italiana in questo momento. Del resto, diciamo, se si costruisce una figura di un leader che comunque ha vinto democraticamente le elezioni, come un tiranno, un barbaro, un attentatore della democrazia, un sovvertitore delle istituzioni, uno che sta portando l'Italia allo spaccio, non è che questo, diciamo, stabilisca una connessione diretta, per carità, però è anche vero che, appunto, non è che uno va a colpire uno qualunque, va a colpire il tiranno, il tiranno contempla il tirannicidio, cioè questo è, diciamo, la base politico-psicologica. Ora, questa cosa, diciamo, è il culmine di uno schema, è il culmine di uno schema che, francamente, io penso che debba essere studiato, analizzato. Non si tratta di dare colpe a qualcuno, però non è che si può pensare ogni volta che chi denuncia da tempo questo clima viene considerato un cerchio bottista, un equidistante, uno che sta lì che sembra che voglia fare il maestrino, che vuole moderare i toni. Non è questione di toni, la lotta politica può avere dei toni accesissimi. Faceva riferimento prima Gianola a una situazione di tensione sociale, certo che c'è una forte tensione sociale, ma rispetto all'entità, all'enormità della crisi, a me sembra di registrare il fatto che non c'è paragone tra il livello di tensione sociale, che avrebbe pure le sue giustificazioni, che certo ha le sue manifestazioni, ma non come si poteva temere, e il livello di tensione politica, non sociale, di tensione politica, non c'è veramente nessun rapporto. Questa è la malattia italiana, questa è la malattia della Seconda Repubblica Italiana, che, da cui bisogna assolutamente uscire, è uno schema che bisogna rompere. Dopodiché ci possono essere i mattacchioni, i pazzi, sempre, in qualunque schema politico, in qualunque contesto culturale, ma è chiarissimo che tutti noi abbiamo la percezione che questo gesto si inscrive in un'atmosfera che ci domina da anni, e questa atmosfera va dissolta sia da parte di chi sta con Berlusconi, sia da parte di chi legittimamente si oppone a Berlusconi. Non è possibile, Berlusconi va contestato per quello che fa, non per la figura che rappresenta, non per la persona che è, non perché sia il capo della mafia, non perché sia il dittatore, non perché sia Hitler o Videla o tutte le cose che sono state dette, perché in fondo se è Hitler, scusate, posso dire una enormità, certo, se Berlusconi fosse Hitler, io non troverei così sgradevole il fatto che qualcuno eliminasse, facesse Stauffenberg. Noi siamo con von Stauffenberg, no? Certo. Noi siamo con lui. Certo. E invece, appunto, questo discorso invece non va fatto in una democrazia, però vedi, come quella italiana. Però vedi, Battista, allora bisogna fare anche un passo avanti, perché noi dobbiamo assumerci anche le nostre responsabilità dei giornalisti, nel senso che io sono molto d'accordo su questo. Registro che i nostri ascoltatori sono spaccati in due, perché c'è gente che dice piantatela, Togliatti è stato sparato, sì. La differenza è che ieri si poteva sparare benissimo, ma comunque non credo che sia questa tanto la differenza. La differenza è nel fatto che una persona politica, un leader, assume su di sé la carica di spaccare un paese, tanto che metà del paese, e si vede anche dai messaggi che riceviamo stamattina, dice Di Pietro sbaglierà, ma dice la verità. Questo è il punto, per liberarsi di Berlusconi, questo è altro. Allora c'è metà del paese che arriva a questo, e purtroppo, o per fortuna, io non lo so, Rinaldo e Pierluigi, ma c'è una buona metà dell'informazione che domina questo processo, perché se uno lo dovesse leggere per anni solo Franco Cordero e quello che scrive di Berlusconi, non è che dovremmo dire che Tartaglia ha fatto poco, perché si è limitato a tirargli in faccia una cosa col Duomo di Milano, perché forse era meglio se usava un'arma un pochino più decisiva. Quindi l'informazione non è che descrive un paese, c'è una parte di informazione che anima il paese, che lo ispira, che lo motiva, che lo carica ogni giorno, e alla fine arriva qualcuno che di quella carica si fa la mano. Questa è la mia sensazione. Forse anche l'informazione dovrebbe essere un pochino più responsabile. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando del seguito, delle conseguenze, del significato dell'aggressione subita ieri dal Presidente del Consiglio a Piazza Duomo a Milano da parte di Tartaglia, l'assalitore Massimo Tartaglia, sottoposto a 10 anni a cure per lo suo stato psichiatrico isolato, ma certo espressione anche di un fenomeno che cresce in questo paese, che anzi fa sintesi forse della Seconda Repubblica, dell'anomalia Berlusconi e della maniera anomala con cui l'opposizione, una parte della stampa, una parte della politica, una parte della magistratura negli anni, in maniera crescente, in maniera anomala quanto si sostengono è anomalo Berlusconi, ha tentato di liberarsi del problema di Berlusconi. Abbiamo visto come obbligatoriamente questo fatto ci obblighi a parlare parlare ancora di Berlusconi, dice Gianola, e siamo sempre lì, e su questo anche Pierluigi Battista si è dichiarato d'accordo. Ci siamo interrotti su un punto, ma l'informazione non ha una responsabilità, una parte di questa informazione nell'aver arrovantato sempre più il clima, incentrandolo sugli eccessi di Berlusconi persona, gli eccessi della moralità, gli eccessi della capacità della persona che eccede nelle gaffe, che non sa stare a tavola, che crede di essere un Nerone matto, come spesso è stato descritto? C'è una responsabilità di questo? Qual è il sottile margine in cui poi criticare questa maniera di impersonificare il male in Berlusconi non può apparire, non può sembrare come anche il desiderio di mettere un bavaglio all'opposizione o di delegittimare chi critica, perché c'è anche questo punto che sento vibrare in molti dei messaggi che ascoltiamo. Allora, un ascoltatore, iniziamo a sentire un secondo alcuni di voi, si aggiungono poi altri ospiti con cui commentare insieme. Cominciamo da Marco, dalla provincia di Milano. Prego Marco, come la pensa? Prego, dica. Marco, si avvicina un secondo perché si sente un pochino male, prego. C'è un eco terribile. No, proviamo a richiamarla. Sentiamo intanto Paolo da Como. Prego Paolo. Sì, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io sono d'accordo sulla sua ultima considerazione, sul fatto che l'informazione abbia esasperato molto il clima, poi anche da quello che poi i politici stessi hanno fatto negli anni. Però ecco, l'informazione, effettivamente sono d'accordo con lei, ha una grossa responsabilità. Non so se può essere indicativo, però mi ha colpito molto stamattina il fatto che, leggendo le testate giornalistiche straniere, parlano del primo ministro, del presidente del consiglio, leggendo quelle italiane parlano di Silvio Berlusconi. Questa è, cioè, proprio anche la figura istituzionale non è più presa in considerazione, si parla della persona Silvio Berlusconi, e questo sinceramente mi ha colpito molto, perché vuol dire che questo clima, che io vedo che è stato esasperato molto, è portato all'estremo anche da come viene informata la popolazione. Quindi sì, sono d'accordo con lei, c'è un clima che è fomentato molto anche da un certo tipo di informazione. Quindi c'è il problema di come poi l'autoinformazione può autoindursi, per carità, senza costrizioni, senza mandare nessuno alla sbarra, forse cambiarlo questo tono. Cristina da Pordenone, prego Cristina. Buongiorno. Senta, io invece sono assolutamente, non dico in disaccordo, ma quasi, sulle ultime frasi che ho sentito, spero bene, no? Credo che l'informazione più di tanto non abbia colpa, perché fa il suo dovere, e io spero lo faccia a 360 gradi, no? Se Silvio Berlusconi qui è definito tale e non è definito primo ministro, è perché se l'è voluta. Tutto ciò che viene detto è... No, io non credo l'informazione sia scorretta, credo qualche volta sia di parte e qualche volta non completa. Detto questo, per quel che riguarda l'ultima parte che ho sentito, io ho telefonato per esprimere il mio parere sul fatto accaduto ieri sera. Allora, è vero, io sono di parte. Nel senso che non amo incondizionatamente Silvio Berlusconi e non lo definisco primo ministro, e perché non lo vedo come tale. Il primo ministro dovrebbe fare il bene degli italiani, il bene dell'Italia. Mi prendo le mie responsabilità e Silvio Berlusconi tende a fare solo ed esclusivamente il suo bene, è una persona egocentrica al massimo, non c'è nessuna animosità in quello che dico, c'è un grande dispiacere, una grande delusione, perché oltre ad essere madre di tre figlie, ho due nipoti, spero di averne altri, e ci tengo al loro futuro, credo che la politica costruisca il loro futuro. Mi interesso di politica per questo motivo, anche perché insomma ci tengo ad essere informata. Ma Cristina, ma non credo che sia in legittimità, sotto attacco di legittimità, o qualcuno si permetta di eccepire sul fatto che chiunque non si riconosce in Berlusconi, chiunque abbia una più che fondata opinione diversa, la esprima. Cioè, non stiamo parlando di questo obiettivamente. Ha senso se lei mi dice, io siccome mi sento all'opposizione e di fronte a quello che è avvenuto ieri penso, cambia in un modo o cambia nell'altro, cambia, è cambiato qualcosa nella sua testa nel concepire fino a che punto bisogna spingere l'opposizione oppure no? Perché non stiamo parlando della legittimità di non identificarsi in Silvio Berlusconi, e ci mancherebbe altro, Cristina. Cioè, è cambiato qualcosa per lei da ieri sera o no? È cambiato nel senso che ho un po' più paura della violenza, un po' più paura di prima, però la credo che questa sia... non dico meritata, per l'amor del cielo, però indotta da, no? Berlusconi, dal comportamento del governo attuale. Alt, la fermo, perché a questo punto risentiamo l'esponente politico che ha, secondo me, la caratteristica, alcuni possono pensare il talento, altri possono dire un'espressione negativa, di essere esattamente quello che più secondo me esprime lo stato d'animo. Non voglio dire che Cristina vota per Di Pietro, ma insomma lo stato d'animo di chi la pensa come Cristina, e cioè Antonio Di Pietro. Risentiamo brevemente quello che ha appena detto ai microfoni di Radio 24. Io non intendo fare alcuna scusante, dare alcuna scusante all'aggressore, ci mancherebbe altro. È un matto e malato di mente che deve rispondere del suo gesto inconsulto e criminale, e in questo senso deploro e condanno quel che ha commesso. Dopodiché mi è stato chiesto, ma perché c'è questo clima di odio nel paese? Io ho detto e ribadisco, perché non intendo iscrivermi al club dei buonisti di convenienza né degli ipocriti, che il clima di esasperazione, di rabbia, di disagio, di ribellione da parte di migliaia di lavoratori è lì, e che si legge palpabile ogni giorno nelle piazze, nelle fabbriche, sopra i tetti, nei campanili, perché c'è gente che non arriva a fine mese, gente che è senza lavoro, ditte e imprese che sono abbandonate a se stesse. C'è una politica governativa che ha pensato in questi mesi soltanto a se stessa e ha obbligato il Parlamento soltanto a fare leggi che servono ad alcuna, anzi ha criminalizzato ogni organo di garanzia, dalla Corte Costituzionale alla Presidenza della Repubblica, ai magistrati, anche al vigile urbano sotto casa. In una situazione di questo genere abbia pazienza. È vero che il clima di odio e di disperazione deve cessare, ma è anche vero che deve essere responsabilità di tutti, e non può essere usato quel che è accaduto per fare da lavacro, da spugna nei confronti di una politica governativa, a mio avviso irresponsabile e insensato nei confronti dei cittadini. Io faccio parte di quella categoria di persone che dissento totalmente dalle politiche del governo Berlusconi, anche dalle politiche in materia giudiziaria, in materia economica, in materia di giustizia sociale, in materia di pari opportunità, in materia di rispetto di tutti di fronte alla legge, in materia di tutto questo. Io dissento, dissentivo ieri e dissento oggi, anche dopo quello che è successo. Non intendo oggi cambiare la mia opposizione semplicemente perché è successo un fatto grave che io condanno e deploro, ma che quindi deve dire che dobbiamo avallare le politiche governative. Io mi batto democraticamente con l'esercizio del diritto al voto all'interno del Parlamento, fuori dal Parlamento, affinché cambi questa politica governativa. Lo faccio con i mezzi democratici, deploro e condanno il gesto di chi usa la violenza da qualunque parte venga, specialmente quando in questo caso arriva in un modo così violento che non ha né alcun capo né coda. Ecco, Antonio Di Pietro dice io non cambio di un millimetro, dopodiché non è solo, c'è anche l'intervista dell'onorevole Bindi che oggi dice non faccio la vittima, Berlusconi è il responsabile primo del clima di violenza. Giorgio Mulè è collegato con noi, il direttore di Panorama, buongiorno direttore. Cambia o non cambia, e cosa deve cambiare nel tono anche dell'informazione dopo la violenza di ieri contro Berlusconi? Ma guarda, io in realtà le parole di Di Pietro, così come quelle dell'onorevole Bindi, non mi sorprendono perché sono coerenti rispetto a quello che hanno fatto fino ad adesso. Ci si aspetterebbe che magari ci fosse un rinsavimento quantomeno nei toni, nelle motivazioni, rinsavimento che ahimè non vedo. Sicuramente la situazione che viviamo è figlia, direi, di tre grandi filoni. Uno è quello legato proprio all'informazione. L'informazione da mesi ospita, dipinge Berlusconi come il male assoluto, ma lo fa non soltanto attraverso la legittima e sacrosanta critica che si muove al Presidente del Consiglio e non alla persona di Silvio Berlusconi, ma lo fa anche ospitando interventi di magistrati, soprattutto di magistrati che non hanno perso occasione per costruire intorno a Berlusconi questa immagine del male assoluto. L'editoria e l'informazione hanno una responsabilità enorme, informazione non soltanto ovviamente la carta stampata, ma soprattutto televisiva, dei cosiddetti programmi di approfondimento giornalistico. Sicuramente un'altra, come dire, torrente affluente di questo odio è quello degli oppositori, cioè una settimana fa in piazza si è celebrato il Nobby Day, che non era una giornata di contestazione al Presidente del Consiglio, ma anche lì alla persona di Silvio Berlusconi, e in quella piazza il PD ha avuto, il Partito Democratico è andato e non è andato, c'era ma non doveva esserci, si è confuso in mezzo a migliaia di persone che legittimamente cavalcavano un'onda che però poi alla fine esaspera i toni e genera in alcune menti malate, come sicuramente è malata la mente della persona che ha gridato ieri sera al Presidente del Consiglio, perché si sente legittimata a quel punto. Io non faccio lo psichiatra, ma insomma qualche lettura anche io me la sono fatta, cioè la persona che ieri ha gridato a Berlusconi, come tante altre, si sente legittimata nel suo gesto perché viene caricata nel tempo di messaggi in cui identifica quella persona come il male assoluto, e alla prima occasione con qualsiasi arma, ieri sera aveva la Madonnina, ma poteva essere benissimo un coltello o una pistola o qualsiasi altro mezzo, gli si scaglia contro. Questo è frutto di una campagna di odio, di una fabbrica dell'odio, più che una campagna di odio, che ahimè è stata alimentata anche da soggetti che invece avrebbero dovuto buttare acqua nel fuoco e legittimarsi a loro volta come soggetti in grado politicamente di contrastare l'azione del Presidente del Consiglio, e non già in maniera ossessiva, continuata, ripetitiva, quella della persona di Silvio Berlusconi. Quindi ritengo che adesso non ci sarà non soltanto nessuna marcia indietro, ho visto stamattina un editoriale di Ezio Mauro assolutamente condivisibile, basta girare pagine, andare a pagina 2 e 3 per trovare già all'interno stesso delle cronache dei riferimenti, delle aggettivazioni, dei distinguo che immediatamente fanno cascare le braccia rispetto a quello che così aulicamente viene detto invece nella prima pagina del giornale. Eccoci, tornati in studio, ci stiamo occupando del dopo attacco a Berlusconi, la violenza di cui è stato vittima. Io do atto fino a questo momento alla maggioranza dei messaggi che ricevo tramite SMS e del tono Berlusconi sarei cercata. Non esagerate, non si può a questo punto mettere la mordacchia a chi lo vuole criticare, è lui che delegittima tutti i giorni le istituzioni, cresce l'esasperazione. Io devo dare atto, questo non è naturalmente un sondaggio scientifico, voi sapete che chi manda gli SMS è il più attivo e può benissimo essere il più attivo nel farlo tra gli ascoltatori, chi la pensa soprattutto in un modo piuttosto che in un altro, però insomma la maggioranza dei sondaggi va in questo, degli SMS scusate, va in questo senso. Ancora due telefonate poi torniamo a commentarle con i nostri ospiti, colleghi giornalisti. Abbiamo innanzitutto Antonio da Cremona, prego Antonio. Sì, devo dire che lei ha già riassunto in tre parole il mio pensiero, quello proprio col quale mi ero presentato 10 minuti fa. Ho usato un adagio per semplificare agli estremi: chi cerca trova, lo sappiamo, insomma. E il clima politico avvelenato, io ripeto, non sono un estimatore di Di Pietro, neanche uno che lo ha votato, anzi posso dire che ho votato per Berlusconi, quindi la nausea che si sta diffondendo dentro di me è assolutamente imparziale dal punto di vista politico. Però lei dice, da ex elettore deluso, se capisco bene, lei dice Di Pietro tutti i torti non ce l'ha. No, non ne ha neanche uno, direi che è l'unico che si è tirato fuori dai lacchè che stanno attorniando l'opinione che stanno cercando di mettere la palla in rete, giocando un po' così, insomma, in modo improprio e neanche tanto pulito. Grazie Antonio. Ugo da Pescara, prego Ugo. Volevo dare atto pubblicamente a Radio 24 di averci fatto ascoltare, lei sola questa mattina, la parte del discorso di Berlusconi di ieri, dove attaccava duramente i giovani oppositori che fischiavano in piazza. E le altre radio non l'hanno fatto ascoltare, nemmeno le televisioni. Questo non è che spiega o giustifica il gesto violento, che va comunque sempre condannato, però dovrebbe far capire che chi rappresenta le istituzioni non può permettersi, non deve permettersi, per motivi anche di opportunità istituzionale, di parlare in quel modo a un gruppuscolo di quattro giovinastri, chiamiamoli così, che stavano soltanto esercitando un diritto, quello di fischiare. Cioè lei dice li ha aizzati? Lei dice li ha aizzati? Ma non li ha aizzati, Berlusconi aizza continuamente. Quando parla così male, in maniera così spudoratamente negativa della Corte Costituzionale, dei magistrati, del Presidente della Repubblica, si permette di fare cose che nessuno di noi farebbe. Lei, credo, non lo farebbe mai con quei termini. Quindi vuol dire che bisogna moderare i toni. Per primo deve farlo chi rappresenta l'istituzione, perché deve dare l'esempio, non ce lo dimentichiamo. È come se lei, conducendo una trasmissione radiofonica, si mettesse a dire parolacce che magari nel suo linguaggio di tutti i giorni in famiglia userà. Ma, non se la sentirebbe di usarli in radio, chiaramente. No, sicuramente, ecco, tento di non usarli anche nella vita privata. Grazie, Ugo da Pescara. Domanda per Rinaldo da Gianola. L'opposizione che responsabilità ha, dovendo oggi fare i conti con molti che, come si vede, anche ai microfoni di Radio 24, che non è certo, voglio dire, una radio dell'estrema sinistra, eppure, come si vede, molti italiani oggi, tra quelli che sono ormai delusi e disposti a molto per liberarsi del problema Berlusconi, chiedono all'opposizione di non avere paura di essere radicale. E questo cosa può voler dire per il PD, per l'opposizione, all'indomani del fatto che un oggetto di ferro che spezza due denti, che tutto sommato c'è una parte d'Italia che dice bah, se l'è cercata. Rinaldo, tu che dici? Dunque, quando dicevo prima che la situazione politica, secondo me, da oggi in poi non è la stessa, cioè l'Italia non è la stessa dopo l'aggressione di ieri sera, intendevo dire che la faccia insanguinata di Berlusconi è un fatto tra virgolette straordinario mediaticamente e politicamente. È un manifesto, una vittima della violenza di piazza. Questo è la sintesi, che il messaggio che sta passando. Qual è il rischio che vedo io? È che, diciamo, l'opposizione, che purtroppo, io dico, non è mai stata radicale in questi due anni di governo, mai stata radicale, cioè il PD si è costruito, si sta costruendo adesso, è un partito praticamente inesistente fino all'altro ieri, un partito liquido, talmente liquido che non si capiva dove fosse. Oggi c'è il rischio, secondo me, che di fronte a questa immagine di Berlusconi, l'opposizione, o radicale o poco radicale o moderata, scompaia addirittura, non ci sia più. E così la critica giornalistica. Allora, io ieri sera parlavo con un direttore importante di un giornale di Milano e commentavamo, così come si poteva giudicare da un punto di vista giornalistico, se avessimo dovuto scrivere un pezzo, cos'era successo negli ultimi mesi, no? Allora, tutti e due ci siamo trovati concordi nel dire beh, ma forse la cosa più grave che è successa da un punto di vista giornalistico, politico, è il fatto, è l'aggressione di Feltri a Dino Boffo, direttore di Avvenire, costretto alle dimissioni per una cosa inesistente, e poi ha chiesto scusa due mesi dopo nel silenzio generale. E questo collega mi diceva, penso se fosse successo a me o a noi, cioè ci avrebbero cacciato pedate nel sedere. Quindi la responsabilità dell'informazione, io starei attento adesso a denunciarla in un modo così violento, perché io non vedo tutta questa informazione schierata nella campagna d'odio contro Berlusconi. Vedo un gruppo editoriale, quello di Repubblica, che fa dei suoi interessi politici, editoriali, probabilmente anche affaristici, legati agli interessi del suo proprietario. C'è un giornalino piccolo come l'Unità che cerca di fare una bella opposizione e in cambio ottiene 6 milioni di risarcimento, di richiesta di risarcimento danni da Berlusconi, e poi io vedo delle belle televisioni schierate con il premier, ragazzi, cioè, quindi non scherziamo sull'equilibrio dell'informazione, cioè, piuttosto noi ci dobbiamo chiedere, come chiedeva prima l'ascoltatrice, come mai si parla di Silvio Berlusconi e non di Presidente del Consiglio? Perché la figura personale, però qui i nostri stessi ascoltatori ci dicono, perché in parte ci dicono, perché è lui stesso che ruota tutto intorno a se stesso, per cui alla fine, diceva l'elettrice dell'opposizione, per me quello non è il Presidente del Consiglio perché non si comporta più come tale. Quindi questo è un problema, perché, ripeto, c'è una parte d'Italia che oggi non arretra di fronte al fatto, per me quello è Silvio Berlusconi, non è il premier, per me gli è arrivato un pugno sul muso, bene così, se l'è voluta. E Rinaldo, tu dici, in definitiva poi l'informazione, c'è solo Repubblica, però Repubblica diciamo, ha avuto un agenda setting mica male. Io quando dico Spatuzza dico una cosa che alcuni ascoltatori mi dicono qua, non è vero, bisogna portare in aula i pentiti. D'accordo, io ripeto solo che quell'uomo è andato in aula in Mondo Visione e tutto quello che ha detto in quell'aula non è stato sottoposto da 5 procure prima, credo, a riscontri preventivi, se no non sarebbe andato lì, questa è la mia opinione. C'è andato solo perché c'è Berlusconi. Questa è Repubblica che crea l'atmosfera di questo. Cambierà qualcosa in questo Pierluigi Battista, secondo te? Pronto? Pronto Pierluigi, sapete che cambia qualche cosa in questo da parte di Repubblica? Io non so, io spero che cambi, ma non temo che non cambierà. Se posso dire alcune cose. Allora, primo, l'esempio di Togliatti, speriamo che l'esempio sia l'esempio sbagliato, perché poi ricordiamoci che dopo l'attentato a Togliatti l'Italia corse seriamente il rischio di una guerra civile, sì. che venne, che appunto l'ho ricordato il giorno alla prima, qualcuno tirò fuori le armi della Miata, e devo dire che lì Togliatti, il famoso discorso dal letto dell'ospedale in cui state calmi sì. ebbe una funzione nazionale pacificatrice di cui ancora dovremmo essere grati. La cosa invece sul rapporto informazione politica, bisogna essere un po' chiari su questo. È evidente che non si può chiedere all'informazione, agli intellettuali, di non scrivere quello che pensano. Quindi questo è assolutamente va da sé, quindi è stato fatto il nome di Franco Corrèa. Il problema è quando questo, diciamo, dispositivo di informazione, di opinione e così via, sostituisce la politica. Esatto, io su questo io ringrazio Pierluigi Battista perché ha detto quello che secondo me, ecco, io mi medesimo in quello che ha detto. Io penso che in una parte l'informazione sostituisce, crea, suggerisce, evoca, fa da burattinaio, non descrive, ma fa tutto questo verso la politica. Io ringrazio Giorgio Mulè, non gli ho potuto dare la parola per la seconda volta, ma su questa conclusione per Luigi Battista ci metto la mia firma, Oscar Giannino, e credo che quella parte dell'informazione debba riflettere. Non si tratta di mettere la mordacchia a nessuno che vuole fare l'opposizione, non si tratta di impedire a Di Pietro di dire quello che pensa, si tratta di capire che siamo a un punto. Se dopo il pugno in faccia si dice se l'è meritata, non basterà il pugno in faccia, ci sarà qualcos'altro, e non significa dover delegittimare l'opposizione e dire che questo è un rischio per tutti. Grazie, a domani, da Oscar Giannino. 9 in punto, la versione di Oscar.